Il Signore disse poi a Mosè: «Questo è il rituale per il lebbroso nel giorno della sua purificazione. Lo si conduca dal sacerdote, e il sacerdote esca fuori dal campo e osservi. Se la piaga di lebbra è guarita nel lebbroso, il sacerdote ordini che si prendano per l'uomo da purificare due uccelli vivi e puri, legno di cedro del colore scarlatto e issopo. Il sacerdote ordini che uno degli uccelli sia immolato su un vaso d'argilla con acqua corrente. Prenda l'uccello vivo, il legno di cedro, il colore scarlatto e l'issopo, e l'immerga con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello immolato sull'acqua corrente. Faccia per 7 volte l'aspersione su colui che deve essere purificato dalla lebbra e lo dichiari puro. Poi lasci libero nella campagna l'uccello vivo. Colui che si deve purificare, lavi le sue vesti, tagli tutto il suo pelo e si lavi nell'acqua, e sarà puro. Dopo di ciò rientrerà nel campo, restando per 7 giorni fuori della sua tenda. Il 7° giorno tagli il pelo della sua testa, del mento e delle sopracciglia, tutto il suo pelo. Si lavi nell'acqua corrente e sarà puro. L'8° giorno prenda 2 agnelli senza difetti e 1 agnella di 1 anno senza difetti, 3 decimi di efa di fior di farina intrisa d'olio come oblazione e 1 log d'olio. Il sacerdote che compie la purificazione faccia mettere l'uomo che deve essere purificato e tutto ciò alla presenza del Signore all'ingresso della tenda del convegno. Il sacerdote prenda 1 degli agnelli e 1 log d'olio, li offra come sacrificio di riparazione e faccia con essi il gesto della presentazione alla presenza del Signore. Immoli l'agnello nel luogo in cui immola il sacrificio espiatorio e l'olocausto, il luogo sacro, perché come il sacrificio espiatorio, il sacrificio di riparazione appartiene al sacerdote. Sono sacrosanti. Il sacerdote prenda un po' del sangue del sacrificio di riparazione e lo metta sul lobo dell'orecchio destro di colui che deve essere purificato, sul pollice della sua mano destra e sull'alluce del piede destro. Il sacerdote prenda un po' dell'og di olio e lo versi nel cavo della sua mano sinistra. Intinga il dito della mano destra nell'olio che sta nel cavo della sua mano sinistra e con il dito asperga un po' dell'olio per 7 volte alla presenza del Signore. Quanto resta dell'olio che sta nel cavo della sua mano, il sacerdote lo metterà sul lobo dell'orecchio destro di colui che deve essere purificato, sul pollice della sua mano destra e sull'alluce del suo piede destro, oltre il sangue del sacrificio di riparazione. Quanto gli resta dell'olio che sta nel cavo della mano, lo metterà sulla testa di colui che deve essere purificato. Il sacerdote avrà così compiuto per lui il rito espiatorio alla presenza del Signore. Il sacerdote farà il sacrificio espiatorio e compirà l'espiazione per colui che deve essere purificato dalla sua impurità. Dopo di ciò immolerà l'olocausto. Il sacerdote offrirà l'olocausto e l'oblazione all'altare, compirà il rito espiatorio e il malato sarà puro. Se il malato è povero e non ha mezzi sufficienti, prenda un agnello come sacrificio di riparazione per fare il gesto della presentazione e compiere sul malato il rito espiatorio, un decimo di efa di fior di farina intrisa nell'olio come oblazione, un log di olio e due tortore o due colombi, secondo i suoi mezzi. Uno sia destinato al sacrificio di riparazione e l'altro all'olocausto. L'ottavo giorno li porti per la sua purificazione al sacerdote all'ingresso della tenda del convegno, alla presenza del Signore. Il sacerdote prenda l'agnello del sacrificio di riparazione e il log di olio e compia con essi il gesto della presentazione alla presenza del Signore. Immoli l'agnello del sacrificio di riparazione e prenda un po' del sangue del sacrificio di riparazione e lo metta sul lobo dell'orecchio destro di colui che deve essere purificato, sul pollice della sua mano destra e sull'alluce del suo piede destro. Il sacerdote versi un po' d'olio nel cavo della sua mano sinistra e con il dito della sua mano destra asperga un po' dell'olio che sta nel cavo della mano sinistra 7 volte alla presenza del Signore. Il sacerdote metta un po' dell'olio che sta nel cavo della sua mano sul lobo dell'orecchio destro di colui che deve essere purificato, sul pollice della sua mano destra e sull'alluce del suo piede destro nel punto in cui ha messo il sangue del sacrificio di riparazione. Quanto gli resta dell'olio nel cavo della mano, lo metta sulla testa di colui che deve essere purificato, per compiere per lui il rito espiatorio alla presenza del Signore. Con una delle tortore e con uno dei colombi che ha potuto procurarsi, farà il sacrificio espiatorio e con l'altro l'olocausto, unito all'oblazione. Il sacerdote avrà compiuto così il rito espiatorio per colui che deve essere purificato. Questo è il rituale per colui che è affetto da piaga di lebbra e che non ha mezzi per la sua purificazione. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Quando arriverete nella terra di Canaan, che io vi do in possesso, se io colpirò con una piaga di lebbra una casa della terra che voi possedete, il proprietario della casa vada e informi il sacerdote dicendo: «Una specie di piaga è apparsa nella mia casa». Il sacerdote dia disposizione perché vuotino la casa prima che egli venga a esaminare la macchia, perché non diventi impuro nulla di ciò che c'è in casa. Dopo di ciò il sacerdote entri a esaminare la casa. Esamini la macchia. Se la macchia sulle pareti della casa ha l'aspetto di cavità verdastre o biancastre che formano un incavo nella parete, il sacerdote esca dalla casa verso l'ingresso e la faccia chiudere per 7 giorni. Il 7° giorno il sacerdote torni ed esamini. Se la macchia si è diffusa sulle pareti della casa, il sacerdote ordini che si tolgano le pietre su cui si trova la macchia e che le gettino fuori della città, in un luogo impuro. Poi farà raschiare la casa tutto intorno e getteranno la polvere che hanno raschiato fuori della città, in un luogo impuro. Prenderanno altre pietre e le metteranno al posto delle prime e prenderanno altro intonaco per intonacare la casa. Se la macchia torna e si diffonde nella casa dopo che sono state tolte le pietre e dopo che la casa è stata raschiata e reintonacata, venga il sacerdote ed esamini. Se la piaga si è diffusa nella casa, è lebbra pericolosa nella casa, è impura. La casa venga demolita. Le pietre, il legname e l'intonaco della casa siano portati fuori della città in un luogo impuro. Chiunque entri nella casa durante i giorni in cui è chiusa diventa impuro fino alla sera. Chi dorme nella casa lavi le sue vesti, chi mangia nella casa lavi le sue vesti. Se il sacerdote viene ed esamina e la macchia non si è diffusa nella casa dopo che è stata reintonacata, il sacerdote dichiari la casa pura, perché la macchia è guarita. Per compiere il sacrificio espiatorio per la casa si prendano due uccelli, legno di cedro, rosso scarlatto e issopo. Si immoli uno degli uccelli su un vaso di argilla con acqua corrente. Si prenda il legno di cedro e l'issopo e il rosso scarlatto e l'uccello vivo e lo si immerga nel sangue dell'uccello immolato in acqua corrente e si faccia 7 volte l'aspersione della casa. Si purifica così la casa con il sangue dell'uccello, con l'acqua corrente, con l'uccello vivo, con il legno di cedro, con l'issopo e con il rosso scarlatto. Allora si lasci libero l'uccello vivo fuori della città, in campagna. Avrà compiuto così il sacrificio espiatorio per la casa, ed essa è pura. Questo è il rituale per ogni macchia di lebbra e di tigna, per ogni caso di lebbra delle vesti e delle case, per gonfiori e infezioni e macchie biancastre. Esso indica i tempi dell'impurità e i tempi della purità. Questo è il rituale per la lebbra.